Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. In occasione dell'Expo 2015, Fulvio Scaparro presenta il progetto di un parco ad uso esclusivo dei bambini. Si chiamerà Auli Ule. The Journal of American Medical Association ha pubblicato i risultati di una ricerca sull'attività fisica di bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni. A 9 anni, i bambini svolgono tutti i giorni 3 ore di attività fisica da moderata a vigorosa. Al crescere dell'età, questa attività diminuisce di 38 minuti all'anno nei giorni feriali, mentre quella del fine settimana diminuisce di 41 minuti all'anno. All'età di 15 anni, gli adolescenti svolgono attività fisica per 49 minuti nei giorni feriali e per 35 nei fine settimana. I risultati sono preoccupanti se si pensa che per contrastare gli effetti della sedentarietà, quali l'obesità e la sindrome metabolica, sono consigliati almeno 60 minuti di attività fisica al giorno. In un'intervista rilasciata a un quotidiano nazionale, Giuseppe Morino, dietologo clinico dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dopo aver sottolineato che molti bambini e ragazzi preferiscono l'attività fisica, i giochi sedentari, come i videogame, o lunghe sedute davanti al computer chattando con gli amici, ha dato due consigli. Contrastare la mentalità per cui nello sport bisogna allevare campioni e riprogettare la struttura urbanistica restituendo ai ragazzi lo spazio di cui hanno bisogno. È anche per questo che quando ho avuto notizia dell'assegnazione a Milano dell'Expo 2015, ho pensato alla formidabile opportunità per Milano e l'Italia di lasciare un segno permanente di attenzione all'energia sprigionata dalla natura e dai bambini. Perché è questo il tema dell'Expo 2015. Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Ho proposto dunque la creazione di Auli Ule, World Children Green Space, spazio verde per i bambini e le bambine del mondo. Un simbolo orizzontale per un evento che, a partire dall'Esposizione Universale di Londra del 1851, è stato per lo più caratterizzato da simboli verticali. Ecco, in sintesi, il mio progetto. Immaginiamo che da qualche parte, in una zona facilmente raggiungibile da Milano, con piste ciclabili e mezzi pubblici, sorga un grande spazio verde. Uno spazio che nasca sulla spinta dell'Expo, ma destinato a restare a disposizione dei più piccoli. Quel che si propone è un ambiente per quanto possibile naturale, nel quale la presenza di artefatti sia ridotta al minimo e la cui conformazione libera, aperta, spontanea, possa trasmettere ai bambini il senso di un contatto genuino e immediato con la natura. Si tratta di uno spazio dedicato esclusivamente ai bambini e alle bambine di età inferiore ai 12 anni e ai loro accompagnatori. Non ha intenti didattici espliciti, ma offre ai più piccoli quello che solitamente i centri abitati non offrono: grandi spazi, aria pulita, verde dove muoversi in totale libertà. All'interno del parco non sarà consentita alcuna attività commerciale e promozionale. In quanto prato dei bambini, esso non potrà essere usato per eventi o manifestazioni pubbliche o private. Auli Ule, il nome che abbiamo scelto per questo parco, suona esotico e intrigante per italiani e stranieri che non conoscono l'antica conta dei bambini e delle bambine lombardi. Auli Ule, che ta musè, che ta profita lusinghe, tulilem blem blem, tulilem blem blum. Scegliendo questo nome abbiamo voluto fondare sulla memoria del passato un parco aperto sul nostro futuro. Proviamo a immaginarlo una volta realizzato. Uno splendido prato di dimensioni mozzafiato, un'area pari a quella del Parco Sempione a Milano, delimitato da un filare di alberi sempre verdi, a totale disposizione dei piccoli che, accompagnati da adulti, potranno scorrazzare in lungo e in largo a piacimento. Al centro del parco, al culmine di un lieve pendio, c'è la sorgente, una polla d'acqua che affiora dal terreno. I rivoli si diramano in diverse direzioni, scorrendo in superficie senza costituire alcun pericolo per i bimbi. La sorgente si trova al centro di una grande aiuola fiorita che rappresenta la rosa dei venti. La rosa non indica però soltanto i venti e i punti cardinali, ma anche i principali luoghi della terra che si trovano lungo le diverse direzioni. Poiché ai bambini e alle bambine piace molto sapere dove si trovano rispetto al resto dell'immenso mondo, ai vertici della rosa potranno leggere cartelli che indicano punti cardinali, nomi dei venti, luoghi famosi della terra, con relative distanze dal parco. Nel parco, totalmente accessibile ai disabili, si trovano qua e là piazzole con ripari, dotate di panchine, fontanelle, servizi igienici, cestini porta rifiuti. Il parco è vigilato giorno e notte per la sicurezza dei visitatori e la protezione della struttura. È sempre disponibile l'assistenza sanitaria. Si entra nel parco attraverso un'unica costruzione a un piano, priva di barriere architettoniche, quella del centro di accoglienza che si trova all'ingresso. Il centro di accoglienza, dove si trovano i servizi e il punto di ristoro, visto che il parco non può essere usato per picnic, fornisce ai piccoli visitatori, nelle lingue più diffuse, tutte le informazioni necessarie per trascorrere al meglio qualche ora piacevole in piena libertà. Poche e semplici regole. 1. A chi ti accompagna non è consentito fumare e, per quanto possibile, l'uso di cellulari, iPod, computer e simili. 2. Cani e biciclette per adulti vanno lasciati nell'apposito spazio presso il centro accoglienza, con l'unica eccezione per cani accompagnatori di non vedenti e carrozzine per disabili. L'ingresso all'Auliule è gratuito. Ad ogni bambino e bambina che entrano vengono consegnati 1. Una mappa del parco, 2. Un cartiglio sul quale, se si vuole, lasciare un commento, un messaggio, un disegno, 3. Qualche pastello colorato, 4. Un cestello con ciottoli di diverso colore, di dimensioni tali da non poter essere ingoiati, 5. Un pallone a forma di mappamondo, leggerissimo, ma che non possa scoppiare, 6. Un aquilone. Il tutto è gratuito. Una volta entrati, i piccoli visitatori saranno del tutto liberi di correre, rotolarsi e giocare. L'enorme spazio è a loro completa disposizione. Auliule sarà dunque il parco che Milano dedica ai bambini e alle bambine di tutto il mondo e all'energia che ci donano ogni giorno. Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dall'articolo di Fulvio Scaparro Auliule per le bambine e i bambini del mondo, dal numero di gennaio-febbraio della rivista Psicologia Contemporanea. Letture di Radio 24. Sono sempre più numerosi gli immigrati che rivestono ruoli strategici nella lavorazione di prodotti enogastronomici italiani famosi nel mondo. Ma di fronte a queste positive esperienze di integrazione si nasconde lo spettro del lavoro nero. Caseificio sociale San Giovanni Battista, di Andreola, 600 metri di altitudine sul crinale appenninico in provincia di Parma. Qui i vecchi parlano dialetto e la gente vive ritmi e sapori di un'Italia che non esiste più. Oppure esattamente il contrario, di un'Italia che sta per arrivare. Si chiama Mohamed Marani e vive qui da anni il primo e unico casaro marocchino che produce parmigiano reggiano. I contadini locali scommettono su di lui e gli affidano tutto il loro latte. In questo modo, silenziosamente e probabilmente senza rendersene conto, fanno muovere all'Italia un passo decisivo verso l'integrazione degli stranieri. Mohamed è la prova che in agricoltura gli immigrati non svolgono più solo ruoli di bassa manovalanza. Iniziano invece a imparare tecniche e conoscenze che sono da sempre esclusivo patrimonio italiano. E questo crea un paradosso. Prodotti come il parmigiano, simbolo della nostra cultura anche all'estero, oggi senza sapienti mani extracomunitarie rischierebbero di scomparire. L'Italia conta 175 prodotti certificati DOP e IGP, più di ogni altro paese al mondo. Ma senza il lavoro specializzato degli immigrati, non sarebbe possibile grattugiare nevicate di parmigiano, imbottigliare Barolo e Barbaresco, stagionare il prosciutto di Parma, mondare il prezioso riso da semina del Vercellese. È quello che Maurizio Ambrosini, professore di sociologia all'Università di Milano ed esperto di immigrazione, definisce come successione ecologica del fattore imprenditoriale. Le attività che un tempo erano degli italiani, spiega Ambrosini, e che gli italiani non fanno più, passano naturalmente agli immigrati che hanno il merito di riempire spazi lasciati vuoti assicurando una continuità, anche economica. Nel 2007 i generi DOP, denominazione di origine protetta, e IGP, indicazione geografica protetta, italiani, hanno fatturato alla produzione 5 miliardi e mezzo di euro, per quasi 10 miliardi di fatturato al consumo. Prendi una scranna, siediti pure. Mohamed Marani, 39 anni, ex studente di economia in Marocco, forse crede di parlare italiano, ma le sue frasi sono infarcite di dialetto. Si fa accomodare in cucina in un appartamento annesso al suo caseificio e versa un bicchiere di malvasia dolce, come fa la gente di Andreola per accogliere i forestieri. Sono nato in un villaggio a metà strada tra Marrakech e Casablanca, racconta, e sono venuto via perché in Marocco non c'era lavoro. Un amico che era già qui a Parma mi ha proposto di venire in Italia. Ho trascorso un anno da irregolare, poi con i documenti ho trovato un impiego in una fabbrica di prosciutti. Infine, dal 1996, nei caseifici. Ho iniziato come operaio e un po' alla volta ho imparato il mestiere. Adesso Mohamed è titolare di una ditta individuale, ha un dipendente, anch'egli marocchino, e ha vinto l'appalto per la gestione del caseificio San Giovanni Battista. Mi sveglio alle 5 del mattino, 7 giorni su 7. Prendo il furgone e ritiro i primi 30 quintali di latte dalle stalle vicine, spiega. Torno in caseificio e inizio la produzione. Nel pomeriggio il secondo giro per le stalle, poi di nuovo alle vasche del latte. Il lavoro è duro, ma è una scelta. Il parmigiano mi appassiona. Stivali di gomma sopra il ginocchio, grembiuli di pelle e un berretto. Lui e la moglie Fatima sollevano le grandi ruote di formaggio dalle vasche, sistemandole ordinatamente sui ripiani dello spurgo. 350 forme all'anno di parmigiano DOP, made in Marocco. Tra i lavoratori agricoli regolari, il gruppo nazionale più numeroso è quello degli albanesi, seguiti da indiani e marocchini. Accanto ai regolari, esiste però un esercito parallelo di lavoratori agricoli immigrati privi di documenti o semplicemente non assunti. In un anno sono almeno 320.000 le occasioni di lavoro stagionale irregolare che sfuggono alle statistiche, racconta Gino Rotella, responsabile nazionale del mercato del lavoro degli immigrati per Fly CGL. Nonostante ciascun lavoratore possa anche avere più occasioni di lavoro irregolare, spostandosi dai campi dei pomodori a quelli delle fragole, alla vendemmia, si tratta comunque di diverse decine di migliaia di persone costrette a lavorare senza tutele. Secondo il sindacato, ci sono aree agricole in Italia in cui si sono formati veri e propri ghetti di lavoratori irregolari. Da San Nicola Varco, vicino a Eboli, Salerno, a Casabile, in provincia di Catania, a Gioia Tauro, in Calabria. Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dall'articolo di Carlo Giorgi, Quando l'immigrato è DOP, dal numero di gennaio 2009 del mensile Popoli. Dalle pagine del Foglio, Carlo Panella commenta le ipocrisie delle manifestazioni organizzate a Milano e Bologna dai musulmani che protestavano contro i bombardamenti israeliani a Gaza. Due elementi costitutivi della tradizione islamica vengono costantemente ignorati da chi affronta con approssimazione, soprattutto troppi porporati, il tema del rapporto con i musulmani: la fitrat e la taqiyya. Se si inforcano invece occhiali forniti di queste due indispensabili lenti, le preghiere sui sagrati del Duomo di Milano e di Bologna, da parte di migliaia di manifestanti musulmani, assumono un carattere di violenza ideologica, di offesa, di sfida. Il primo termine, fitrat o khilkat, rimanda al concetto di Islam quale religione naturale dell'uomo, concetto stranamente disertato da tanti cultori del dialogo interreligioso nostrani. François Jourdan così sintetizza il concetto teologicamente aberrante per chi aspiri alla libertà di fede. Per l'Islam tutto è già stato consegnato al primo uomo, Adamo, e tutti gli uomini nascono, come Adamo, nello stato di Islam naturale, fitrat. Un hadith molto conosciuto di Al-Bukhari riporta questa frase attribuita a Maometto: «Ogni bambino, alla sua nascita, nasce secondo il piano di Dio, fitrat». Sono i genitori che ne fanno un ebreo o un cristiano. Dunque, fermarsi in maniera preorganizzata sul sagrato di un duomo per testimoniare il proprio Islam, altro non è che sottolineare proprio l'aspirazione egemonica innata dell'Islam sul cristianesimo. Quelle preghiere testimoniano l'incredibile pretesa che l'Islam ha di essere la religione naturale, di cui il cristianesimo e le altre religioni ammesse sono letteralmente deviazioni. Questo concetto di fitrat è basilare in tutta la struttura della rivelazione coranica, tanto che supporta le molteplici invettive che il profeta lancia contro ebrei e cristiani circa la manipolazione, la falsificazione, il tradimento del testo del libro di cui essi si sarebbero resi colpevoli, inclusa la crocifissione del Cristo. Questo concetto è oggi tanto determinante che la Dichiarazione dei diritti umani nell'Islam, approvata dai paesi musulmani nel 1990, lo pone al centro della sua raccapricciante definizione della libertà religiosa, articolo 10. L'Islam è una religione intrinsecamente connaturata all'essere umano. È proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo. Dunque, supporto pieno alla criminalizzazione di chiunque tenti di convertire un musulmano, ma anche presupposto per la dichiarazione di apostasia, con conseguente pena di morte, nei confronti di chiunque lasci l'Islam, commettendo così un delitto contro natura. Ricordata con tanta plastica evidenza l'egemonia intrinseca dell'Islam sul cristianesimo, i manifestanti di Milano e Bologna hanno dato poi fondo all'arte della dissimulazione, riempiendo i giornali di ipocrite versioni dell'avvenuto, nessuna delle quali riferita a quanto scritto sin qui, che è la ragione fondamentale di quel gesto, per comprendere come la takia, la dissimulazione, sia connaturata con la cultura islamica. Va ricordato che alla morte del profeta iniziò una vera e propria guerra civile tra sciiti e sunniti. Anche nel cristianesimo il diritto a negare dogmi di fede o a compiere gesti contrari ad essa ha un nome, nicodemismo, ma esso ebbe pratica solo per un secolo o poco più nelle guerre di religione successive alla Riforma. Nell'Islam, invece, da 1400 anni è ininterrotta la sequela di guerre intermusulmane, sicché la takia è diventata un costume culturale diffuso, radicato, ha abbandonato il suo carattere di scudo contro la persecuzione, per divenire abitudine, arte retorica diffusa e radicata di un parlare obliquo. Takia è dunque la risibile spiegazione della prima ora, che voleva le due preghiere sul sagrato del tutto casuali. Takia è la negazione, anche da parte dell'imam di Segrate, che poi è andato a porgere le scuse al cardinal Tettamanzi, del significato vero di quel gesto. Takia è larga parte del linguaggio politico musulmano e soprattutto di quello interreligioso. Per decenni i grandi inviati progressisti di mezzo mondo hanno fatto finta di non capire cosa vuol dire la frase in bocca prima ad Arafat, poi a molti suoi epigoni. La Palestina sarà liberata dal Giordano al mare. Bene, non è un'immagine poetica, non è linguaggio forbito da mille e una notte, come molti hanno sempre creduto. La sua traduzione, che qualsiasi arabo comprende, è «distruggeremo Israele». È insomma la stessa, identica minaccia espressa nel 2005 da Ahmadinejad. Campione di dissimulazione è Tariq Ramadan, che su di essa ha costruito le proprie fortune. Nel corso di un'intervista, ad esempio, Silvia Grilli gli chiese: «È giusto uccidere un bimbo israeliano di 8 anni perché da grande farà il soldato?» Tariq Ramadan rispose che è proprio giusto uccidere un bimbo israeliano, senza però mai dirlo. In sé è un atto moralmente condannabile, ma è contestualmente comprensibile perché la comunità internazionale ha consegnato i palestinesi agli oppressori. Per questo tanti europei lo invitano nei loro salotti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Carlo Panella «La dissimulazione e il parlare obliquo degli islamisti in preghiera sotto il Duomo» dal Foglio del 13 gennaio. Nel suo ultimo libro Sam Stoll traccia un profilo dei 100 cani che hanno cambiato la storia. Ascoltiamo la lettura di un capitolo dedicato a un cane che forse invece avrebbe preferito rimanere anonimo. Non tutti gli animali che contribuiscono ai progressi dell'umanità lo fanno di loro spontanea volontà. Un esercito di cani è morto nei laboratori dopo aver subito ogni genere di torture, da pericolosi esperimenti alla vivisezione. Per molto tempo nessuno ha dato molto peso alla cosa, finché la morte solitaria di un meticcio senza nome ha scatenato un coro di proteste indignate. Nel febbraio del 1903, il cane in questione, un piccolo terrier passato alla storia solo come cane marrone, venne soppresso dopo essere stato sottoposto a vivisezione nel Dipartimento di Fisiologia dell'Università di Londra. Purtroppo non c'era niente di insolito nella macabra pratica, che veniva impiegata regolarmente per l'ammaestramento degli studenti. Ma quella volta le cose andarono diversamente. Quel giorno tra il pubblico in aula c'erano Leisa Schartau e Louise Lindhoff Egby, due antivivisezioniste svedesi che si erano iscritte alla facoltà femminile di medicina di quell'università proprio per essere testimoni oculari di tali procedure e documentarle. Presentarono i loro appunti a Stephen Coleridge, segretario onorario della Lega Britannica contro la vivisezione, il quale accusò pubblicamente il medico responsabile di non aver preventivamente anestetizzato cane marrone, come richiesto dalla legge, e di aver impiegato l'animale in più di un esperimento, violando una seconda volta il codice. Il medico denunciò subito Coleridge per diffamazione, ma pur vincendo la causa in tribunale, perse clamorosamente agli occhi dell'opinione pubblica. Dai giornali si levarono voci scandalizzate per il modo in cui venivano trattati i cani e un tabloid arrivò persino a raccogliere 5.735 sterline per pagare l'ammenda che il giudice aveva inflitto a Coleridge. La situazione diventò ancora più incandescente quando a Londra venne dedicato un monumento a cane marrone. Inaugurato il 15 settembre 1906, sembrava una normalissima fontana con un cane di bronzo in cima, ma recava un'iscrizione dalla forza incendiaria che recitava: alla memoria di un terrier marrone ucciso nei laboratori dell'Università di Londra nel febbraio 1903, dopo essere passato da un vivisezionista all'altro finché la morte non sopraggiunse a liberarlo dalle sofferenze. Subito scoppiarono violenti disordini quando gli studenti di medicina, decisi ad abbattere il monumento, si scontrarono nelle strade con le teste calde che abitavano in zona. Alla fine la statua venne rimossa nel 1910 e presumibilmente distrutta, però il cane marrone e ciò che rappresentava non furono dimenticati. Nel 1985 venne eretto un nuovo monumento all'anonimo terrier nel quartiere londinese di Battersea. Sul piedistallo erano incise le stesse dure parole di condanna per la sperimentazione sugli animali, ma questa volta nessuno prese le difese di quella crudele procedura. Avete ascoltato la lettura di un capitolo del libro di Sam Stall, I 100 cani che hanno cambiato la storia, Sperling e Kupfer, 178 pagine, 12 euro.